La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 43 secondi in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Molte domande su scadenze fiscali di questi giorni, ho capito, talvolta vi consiglierei però di rivolgerle all'Agenzia delle Entrate, perché cioè condivido con voi a volte le pretese infondate e la lamentazione, però poi oltre a condolermi con voi posso poco. Ma detto tutto questo, no, perché ce ne sono state parecchie in queste ultime, tra ieri sera e stamattina, di cosa parliamo oggi? Parliamo di una riflessione complessiva per i risultati finali oramai assestati di questo straordinario evento che ha cambiato la storia d'Europa. Ecco, questo è il modo giusto secondo me per commentarlo, perché solo due mesi fa sembrava che le elezioni francesi fossero destinate a rendere ancora più corta la miccia di una possibile esplosione europea. Ricordate quando si sprecavano le analisi, la Le Pen, l'Eliseo, e poi cosa succederà? Invece no, proprio, direi proprio no, ecco, no. Nel senso che non solo le elezioni che hanno premiato Macron, ma alle legislative, domenica, l'altro ieri, il secondo turno, alla fine risultato che fino a poche settimane, pochi giorni prima, molti non avrebbero neanche osato immaginare, i francesi hanno dato più della maggioranza assoluta dei 577 membri dell'Assemblea Nazionale a Marche, visto che leggo la tabella definitiva dell'Assemblea Nazionale che stamattina c'è, da stamattina su Figaro, a Marche sono andati 306 seggi su 507, cioè non hanno bisogno in teoria neanche quelli del partito di Macron del sostegno del partito di Bayrou, che ha comunque andato bene, ha preso 42 eletti. I gollisti tradizionali, quindi i Repubblicani, hanno preso 112 eletti con il 22,2% dei voti. Il Fronte Nazionale con l'8,7% dei voti ha fatto 8 eletti in tutto. Al Partito Socialista è andato il 5,7% dei voti, 30 eletti, Mélenchon il 4,8% dei voti, 17 eletti, l'UDI, gli Unioni Democratici e Indipendenti, 17 seggi, poi ci sono altri 6 seggi di eletti diversi a destra, 11 seggi di eletti diversi a sinistra, 10 del Partito Comunista, 5 regionalisti e via via fino a un ecologista, uno di estrema destra e uno de Boule France. Allora, detto questo, il risultato clamoroso è che quindi Macron può contare sulla maggioranza assoluta. Vedremo qual è il rimpasto di governo, ma tra l'altro ci sono già novità negative, perché due ministre potrebbero non essere confermate per via di scandali, gli stessi tipi di scandali che hanno colpito il Fronte Nazionale, cioè collaboratori al Parlamento Europeo che lavoravano per il partito. Uno di questi è Sylvie Goulard, ben nota in Italia, collaboratrice di Prodi, coautrice con Monti di un libro, ministra della difesa nominata 12 giorni fa e che non sarà rinominata. Vediamo se anche un'altra sua collega ministra. Un punto su cui riflettere è quello dell'astensione che è stata elevata, molto elevata, però detto tutto questo il risultato è clamoroso e cambia il corso delle attese in Europa. È ovvio che la crisi dell'Europa e la possibile esplosione dell'euroarea, visto che la Le Pen ha puntato tutto sul referendum sull'euro, è praticamente sparita dall'orizzonte europeo, e a questo punto però la domanda diventa plurima. Quale sarà l'identità vera di Marc e di Macron? È una specie di sostituzione, grazie al suo coraggio, contro tutti e due i vecchi partiti e insieme contro i partiti antisistema, cioè insieme contro il Partito Socialista che esce minimizzato e il Partito Gollista, ma con la durezza, altrettanta durezza e anzi maggiore, contro Le Pen e contro Mélenchon. Ma detto questo, scopriremo che è un partito di che tipo rispetto alla tradizionale classificazione di vecchio tipo? È un partito socialdemocratico ridipinto? È un partito più centrista che socialdemocratico? È una rifondazione che non tornerà più indietro rispetto alle vecchie identità politiche della Francia, della Quinta Repubblica? Cosa dice poi all'Italia e al resto dell'Europa questa elezione? Allora, per tentare di capire meglio questa titanica impresa riuscita a Macron, due ospiti. Abbiamo con noi da una parte un giornalista che in questa lunghissima vicenda della preparazione, poi dell'avvicinamento e poi della celebrazione delle elezioni francesi, con un suo blog ha in realtà alimentato di notizie e opinioni tantissimi colleghi in Italia e secondo me gli va reso un pubblico grande grazie, cioè Francesco Maselli, grazie di essere qui con noi. Ciao Oscar, buongiorno. E Jean-Pierre Darny, lo conoscete, lo mettiamo da anni, vice direttore dell'area sicurezza e difesa dello IAI. Buon pomeriggio Darny. Buonasera. Allora, Francesco, perché tutti hanno titolato ma una vittoria non eccessiva al di sotto delle aspettative? A me sembra clamorosa, però è stato quello il cliché generale. No, ma sicuramente clamorosa e certo rispetto a quello che sembrava dopo il primo turno, effettivamente sono minori i seggi che ha preso dopo le proiezioni, dopo la prima sera, però voglio dire se confrontiamo quello che pensavamo due mesi fa, ecco, no, la situazione è completamente inaspettata. Noi siamo abituati, purtroppo, mi sembra, ma anche in Francia, non solo in Italia, a ragionare su quello che succede la settimana scorsa, no? In realtà, se poi guardiamo quello che è successo negli ultimi sei mesi, ci rendiamo conto che quello che ha fatto Macron è un capolavoro politico. Certo è che una cosa è conquistare il potere, un'altra è gestirlo. Sono due cose diverse. Certo, però intanto conquistarlo da zero, non avendo niente alle spalle, creandolo, farsi eleggere, sconfiggere tutti e avere la maggioranza assoluta, a me sembra una cosa veramente titanica. In Francia come si considera la bassa partecipazione? Male. Il primo ministro ha fatto una dichiarazione dicendo che è preoccupato. In generale, sicuramente il fatto che sia stato il record di bassa partecipazione di tutta la storia della Quinta Repubblica non è un buon segnale. Va detto che sicuramente ha contato il fatto che fossero delle elezioni ritenute un po' scontate, quindi molte persone che magari hanno votato per Macron al primo turno poi non hanno pensato che è giocata, per cui non vado, ma soprattutto quelli dell'opposizione. Moltissimi dati poi sui voti assoluti mostrano che chi ha votato Le Pen e Mélenchon alle presidenziali non è andato, perché evidentemente ha pensato che la partita fosse giocata e che a quel punto, diciamo, quella prospettiva politica aveva già perso alle presidenziali. Darny, anche a lei chiedo all'inizio, condivide l'idea che molti hanno utilizzato per commentare il primo voto? Ma insomma, una vittoria, ma al di sotto delle aspettative? No. Ecco. No, è una vittoria clamorosa, è un'impresa politica di bravura e di opportunità, è un cambio epocale per la Francia ed è un cambio epocale probabilmente anche per l'Europa e semmai anche con effetti mondiali. Quindi è molto paradossale perché sia in Francia, dove ero nelle ultime settimane, sia in Italia, ma questo è più comprensibile, c'è una specie di freno a mano tirato, la gente dice ha vinto Macron, però sa la partecipazione, però si aspettava 470 deputati e ne ha 350, però, ma alla fine comunque la sostanza del risultato è incredibile e cambia i giochi a livello nazionale, europeo, continentale, insomma. Ma andiamo un po' a vedere, secondo la sua opinione, per i socialisti è una mazzata da cui non si riprendono mai più e diventa Marc il sostituto nuovo in versione diversa, più modernizzante del Partito Socialista oppure no? diventa, secondo me i socialisti non si riprendono, però dall'altro lato non muoiono perché è un partito storico, ha una rete di eletti nelle varie province, regioni, comuni, e quindi rimarrà un partito socialista, un po' come dire, come un partito italiano che fosse sopravvissuto alla transizione della cosiddetta prima repubblica, poi un solo partito era sopravvissuto all'epoca. Però quindi però fortemente ridimensionato, venderà la sedia e via dicendo, ma il vecchio partito socialista in grado, come dire, di costruire una posizione egemone a sinistra non esisterà mai più. Macron occupa crea un nuovo gollismo, ma un gollismo di centro, e occupa un terreno politico enorme. Certo, uno può sempre dire ci sarà una catastrofe, non funzionerà di qua di là, ma lui già sta facendo, anche oggi stesso, sta facendo le mosse di una giustezza politica. Adesso sta uscendo fuori un gruppo di repubblicani costruttive i confronti di Macron, quindi ci sarà anche una spaccatura minore, ma che gli darà un alleato in più alla Camera, e questo è l'ultimo episodio, e ogni giorno ne stiamo vedendo di più. Quindi continua a essere un magnete che attira anche nuove forze, tra quelle anche neoeletti. Però lei dice un gollismo di centro. Maselli, sei d'accordo? Di centro o è una versione modernizzante socialista, più socialista che di centro? Ma guarda, c'era un bellissimo articolo sul Figaro che spiegava che le radici ideologiche di Macron si trovano sia a destra che a sinistra, ma economicamente si può riconoscere che lui sia più vicino alla destra, forse non la destra francese che è sempre stata piuttosto statalista, ma in generale a quello che noi pensiamo come politiche liberali, che certamente di sinistra non sono, per quanto poi dopo Blair il liberalismo è diventato patrimonio di tutti, detto quanto meno. Ma come si spiega in un'Europa in cui tutti i leader socialisti erano uniti nella linea, e compreso il PD di Renzi, nel dire è finita la terza via, basta, abbiamo sbagliato a cedere al mercato, all'Occidente, dobbiamo tornare a scoprire, eccetera eccetera, improvvisamente la legnata invece in uno dei paesi più statalisti come tradizione, che è la Francia, Maselli? Eh sì, perché c'è evidentemente voglia di una parte del paese, perché poi Macron prende il 25% al primo turno, e le proposte più stataliste come quella di Le Pen e di Mélenchon insieme sommate prendono quasi la maggioranza, quindi insomma questo non vuol dire che la Francia si è convertita, vuol dire che questa minoranza ha fatto blocco e ha deciso di intraprendere, diciamo, per tutti, ecco, come se fosse la strada delle riforme che dovrebbero liberare le energie del paese, che al momento sono ingabbiate da lacci, lacciuoli, la burocrazia francese è pesantissima, il ruolo dello Stato è pesantissimo. Ecco, Macron ha promesso di cambiare tutto questo. Vediamo se ci riesce. Questo è l'interrogativo, secondo me, più interessante. Quello che c'è da dire è che lui l'ha detto prima quello che farà, che è una cosa che non era mai stata fatta in Francia. In genere non si dice nulla, poi a un certo punto si impongono le riforme dall'alto e quindi la gente scende in piazza. Questa volta Macron ha spiegato, ha detto: io farò questo, se non mi volete votare non mi votate. Secondo me questo è stato molto apprezzato dagli elettori, ecco, la chiarezza con cui Macron ha spiegato quello che voleva fare, una cosa inedita in Francia che secondo me è stata molto apprezzata. Si sente un rumore di fondo un po' eccessivo. Allora, Darnis, dal punto di vista tra virgolette italiano, a me la cosa che mi ha colpito è all'indomani, proprio nelle prime ore del voto clamoroso su Eliseo, prima del ballottaggio, si sprecavano i commenti di esponenti politici italiani di aree anche molto diverse che tentavano di avvalorarsi come Macron. Poi alla fine sono spariti tutti, a dire la verità. Non ho capito se per acquisizione di consapevolezza che il paragone non stava in piedi, o perché in realtà nessuno di loro, come sembra a me in Italia, dei protagonisti italiani, ma grandi, medi, piccoli, in realtà può essere ricondotto alla matrice del tentativo politico di Macron e a quello che pensa davvero. Ecco, Dennis, lei dovesse dire a cosa si è dovuto prima l'entusiasmo e poi il fatto che tutti hanno capito che era meglio evitare di dire Macron italiano sono io? Allora, ci sono varie dimensioni. A parte che l'Italia, come tutti hanno dimenticato la storia dell'Ottocento, nel quale il rapporto come la Francia, il partito bonapartista, dunque giacobino, esisteva in Italia e su quello potremmo divertirci per ore. Però una volta questa parentesi chiusa, che non è una parentesi comunque completamente fuorviante, allora è ovvio che il primo tentativo, le prime avvisaglie sono state viste nella sinistra italiana, sì. Renzi via dicendo, perché Macron, liblab, Poi però per vedere una cosa un po' scomoda è che Macron teorizza la spaccatura della divisione fra destra e sinistra e che Macron non si iscriverà al Partito Socialista Europeo, ma bensì con i liberali. E certo, è certo che quando ci saranno le elezioni europee, cioè ancora manca un po', andrà nell'ALDE? Eh sì, cioè, perlomeno quello è stato dichiarato, poi magari potrebbe anche cambiare, però dovrebbe andare nell'ALDE, questa è la stessa cosa. La prima cosa, e quindi... Questi anche ci sono, come dire, membri del PD. Io ho partecipato alla Camera a un evento con deputati anche giovani del PD che certamente guardavano con intelligenza e interesse a questa cosa, però è ovvio che la cosa è un po', come dire, un po' difficile, perché se uno traduce nel scenario italiano deve pensare a un'alleanza fra destra e sinistra, un'alleanza fra chi vuole un mondo come dire aperto, con sia protezione dell'individuo, della collettività, ma anche libertà economica e soprattutto libertà con una forte idea europea. Contro un mondo chiuso, sovranista, insomma degli estremi che sono di sinistra e di destra, lo sono in Francia come lo sono in Italia. Però questa divisione che Macron, con un colpo di politica incredibile, ma anche con un'opportunità, con uno spazio che gli si è creato, è riuscito a portare al successo, in Italia ovviamente si urta delle realtà un po' difficile. La cosa da vedere con curiosità è di vedere se appunto Macron rappresenterà, io lo penso in qualche modo, un tale traino nei prossimi mesi per un certo riformismo europeo, perché lui ha già un'agenda che è tutto parallela a quella della Germania, e quindi fine settembre, inizio ottobre lui aspetta di creare una convergenza, un'accelerazione del motore franco-tedesco, che in modo ragionevole, chi che sia al potere in Italia in quel momento, dovrà in qualche modo fare i conti, se non l'ha già fatto con questo, e fare i conti significa entrare in una dialettica anche virtuosa, e quello potrebbe anche avere poi ulteriormente dei risvolti di politici interni. No, anche perché si tratta di realizzare passi per chi vuole, secondo la logica più velocità, ma verso ulteriore cessione di sovranità nell'agenda italiana. Qua tutti ne vogliono restituirla solo a Roma, la sovranità. Questo riguarda destra e sinistra, perché Renzi in questo le critiche feroci non le risparmia mai oramai all'Europa, dipinta come i burocrati, bim bim bim bim. Tra un minuto torniamo, intanto traffico. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati, con noi Jean-Pierre Darnisa e Francesco Maselli, per bilancio complessivo, ora che è chiaro il contorno preciso, i numeri della vittoria clamorosa di Macron. Maselli, questa agenda franco-tedesca, il ritorno al cuore pulsante del meccanismo trainante tradizionale dell'Europa, come e chi soprattutto spiazza in Italia? Io continuo a leggere interviste del ministro Gozzi, che continua a dire il fiscal compact, più deficit. In Italia la spesa ha continuato a salire. Stamattina abbiamo assistito a una eroica conferenza stampa di Gutgeld, che ha fatto scrivere, sbagliando, al Financial Times che la spesa italiana è stata tagliata di 62 miliardi in due anni. Non è vero. Gli oltre 30 miliardi di spesa recuperata l'anno, come ha testualmente detto, ed è corretto, Gutgeld, sono stati spesi altrimenti, quindi noi non abbiamo tagliato la spesa ha continuato a salire. La diminuzione di poco più di 300 milioni in termini reali si deve per 319 milioni nel 2016 sul 2015 a minori investimenti, quindi questi sono i numeri. Però con chi in particolare dovrà fare i conti il nuovo asse franco-tedesco in Italia, Maselli? Ma io penso con un po' tutti, perché se effettivamente andremo a votare con questa legge elettorale che non consegnerà la vittoria a nessuno, per quanto tutti quanti si dicono estremi estimatori del sistema francese, che fa conoscere, no? la famosa vittoria, la realtà italiana, che siccome nessuno è certo di vincere col maggioritario, preferisce che nessuno vinca. È una realtà, esatto, miseranda di qualunque leader politico, e il PD è quello che mi ha deluso di più, avendo la vocazione maggioritaria, però vabbè. E quindi io credo che per la coppia franco-tedesca sarà complicato trovare un partner, anche perché diciamo adesso c'è Gentiloni, ma è un governo che è praticamente dimissionario, in campagna elettorale, non si capisce bene quando si andrà a votare. Chiaramente questo pone un problema, perché i tavoli già stanno cominciando, Francia e Germania già stanno iniziando a parlare di fare una serie di riforme in Europa, e chiaro, in Italia la inviti perché la devi invitare, però poi quanto conta effettivamente nelle decisioni? Credo molto poco. E aspetta un secondo, quindi... io voglio andare anche su un altro aspetto. Darnis, nei confronti di Trump, mentre la Merkel è stata chiarissima nelle ultime settimane, cioè chiarissima sia sul libero commercio, sia nei confronti delle partite internazionali e così via, Macron su Trump è sulla linea, tra virgolette, di una nettissima differenziazione di posizione, come mi sembra la cancelliera tedesca, o rispetto ai diversi interessi mondiali che ha la Francia rispetto alla Germania è più sfumato secondo te? No, non è affatto sfumato, si è visto molto, ha un genere diverso di quella della cancelliera, ma lì si vede già una convergenza oggettiva molto forte. Appena Trump è uscito, ha dichiarato di uscire dall'accordo di Parigi, lui ha fatto questa dichiarazione in inglese invitando i scienziati americani a trasferirsi in Francia e lanciando il tweet Make our planet great again, quindi ha una posizione anche molto, come dire, non dico aggressiva, ma molto di risposta, che tra l'altro è molto popolare in Francia. Poi il problema è che la Francia da quasi un decennio è l'alleato militare numero uno degli Stati Uniti nel mondo. Questo il Dipartimento della Difesa americano lo sa, lo dice. Io ero a Parigi alle col militare, c'erano vari americani, insomma c'è un legame operazionale molto forte, la porta aerea francese integrata con le porte aeree americane a tutti gli effetti. Però questo è una preoccupazione per quello che viene chiamato ormai lo stato profondo americano, l'amministrazione, la difesa, che cioè anche da parte statunitense sono preoccupati di perdere l'intensità di questa alleanza. Ma dopodiché, a livello, a parte questo aspetto che è importante, ma comunque che sta avendo anche lì dei problemi, perché il non sostengo americano, la risoluzione voluta anche dalla Francia per creare una forza di formazione africana e di interposizione nel Sahel viene percepito molto male da parte di Parigi. Detto questo, però, la posizione sull'insieme dei dossier è molto vicina a quella tedesca, si esprime in modo diverso, ma lì c'è veramente un accordo. Maselli, l'informazione francese è rimasta spiazzata come quella del resto dell'Europa, o qualcuno ha capito molto per tempo che Macron ce la poteva fare? Quando dico molto per tempo significa parecchio prima che andassimo al primo turno delle presidenziali, perché di qua in Italia non si capisce chiaramente, visto che tu hai passato tutto il tuo tempo lì? No, nessuno pensava che lui potesse riuscire a fare quello che ha fatto, credo solo lui. Cioè solo Macron credeva così tanto in se stesso ad agosto 2016, quando si è lanciato, quando si è dimesso, in realtà poi lui si è candidato in autunno inoltrato, però insomma di sicuro nessuno se l'aspettava. Dopodiché si era capita la potenzialità dell'uomo, che tra l'altro fa vendere moltissime copie. Se andate a vedere la quantità di copertine che sono dedicate a Macron, sono tantissime. Perché? Perché chiaramente fa vendere. Poi non tutti parlano bene di Macron, quasi nessuno in realtà, se poi andate a vedere quello che c'è scritto negli articoli, però di sicuro, ecco, la stampa se ne è occupata e ha, come dire, sottolineato il fatto che la proposta di Macron poteva essere effettivamente rivoluzionaria. Allora mi faccio un'ultima domanda a entrambi, partendo da te e poi Darni, però la risposta deve essere secca. Sarebbe possibile mai in Italia qualcuno fare, nelle condizioni attuali, la stessa cosa che ha fatto Macron, se fosse al di fuori da ogni scandalo, macchia nera nel suo passato, eccetera eccetera? Maselli, che dice, sì o no? No, con questo sistema no, è impossibile. Che dice Jean-Pierre Darni? Sì, però dovrà avere infatti effetti molto più limitati, appunto per il sistema elettorale che non crea questo effetto domino. E questa è la ragione, infatti, per cui tutti i partiti vogliono votare col proporzionale. Si tratta di autodifesa, ma i partiti fanno il proprio interesse, cari ascoltatori, mica quello generale, come crede ancora qualcuno tra voi. Legge James Buchanan, Public Choice, e lo Stato ha l'interesse della minoranza politica e della minoranza più estesa amministrativa che lo dirige, non l'interesse generale, che crede voi quando dite lo Stato siamo noi. No, lo Stato sono loro. Grazie a Jean-Pierre.